Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Mentre a Livorno lo stadio si sta poco alla volta riempiendo per l'ultimo saluto a Morosini, a Monaco si consuma la vigilia della prima semifinale di Coppa Campioni, l'andata tra Bayern e Real Madrid. Per questo, ma anche per altro, è pronto il collegamento con Sky Sport 24, dove c'è come ogni martedì Fabio Tavelli. Fabio, buondì. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, guardavo i precedenti e mi sono veramente stupito, perché non ricordavo, non sapevo, insomma, che Reale e Bayern si sono trovate 4 volte in semifinale, 3 volte è passato il Bayern, una sola il Real Madrid. Da qui questa suggestione, di cui ieri hanno parlato in tanti, Mourinho per primo, del Bayern come bestia nera del Real. Sì, è vero, perché i numeri dicono questo, non dicono molte altre cose, dicono che comunque il Bayern, e confermano che il Bayern è una delle realtà più solide, e se la Germania è una realtà solida complessivamente, il Bayern lo è la dimostrazione più evidente a livello di club. La sensazione netta è che dipenderà molto dalla partita di questa sera, considerando che il Real Madrid in casa fa veramente pochi prigionieri, il senso della semifinale può darlo la partita d'andata deve dire per il Bayern di Monaco possibilmente non prendere gol, magari farne anche uno, e quindi cercare di mettere pressione al Real Madrid, che ha i favori del pronostico in maniera nettissima ed evidente, ma lo dice la storia anche di questa stagione. Il Real ha avuto una piccolissima flessione un paio di settimane fa, il Bayern di Monaco era partito fortissimo, ricorderete tutti che fino al match con il Napoli, quello di Champions League della fase a gironi, sembrava che il Bayern di Monaco fosse addirittura più in forma e più forte del Barcellona. Poi non è stato così, perché il Bayern ha cominciato un po' a calare, evidentemente in campionato le cose non sono andate benissimo, al punto che sabato si può segnare il Meisterschale al Borussia di Dortmund. Quindi la fase delle due squadre è una fase diversa, diciamo il Real Madrid buono, tendente all'ottimo, però buono e non ancora ottimo, il Bayern di Monaco invece, diciamo, più che sufficiente, tendente al discreto ma non in grande ascesa. Quindi io credo che, al di là della cabala, che può avere un peso ma molto relativo fin tanto che non si inizia a giocare, quando si inizia a giocare poi è tutto un altro film, l'UEFA quando ha segnato la finale di Champions League a Monaco ha dato modo di sognare ai bavaresi di avere la finale il 19 maggio con la propria squadra in campo. Devo dire che gli è capitato l'avversario peggiore, perché sì, se c'è in questo momento la squadra, una squadra veramente da evitare, cioè di fronte a una pistola io scelgo di giocare contro il Barcellona e non contro il Real Madrid. Cioè, in questo momento, se potessi, eviterei sempre di giocare contro il Real Madrid e José Mourinho. Queste in effetti sono le premesse di questa partita di stasera, che è la semifinale principale. Fa un po' specie dire che quella del Barcellona sia la semifinale di contorno, visto di chi stiamo parlando, però è vero che, con tutto il rispetto per il Barcellona e in questo caso per il Chelsea, è stasera Bayern-Real la semifinale più equilibrata, più aperta, anche se con un favorito, dicevi giustamente, un favorito abbastanza netto, poi appunto si dovrà confermare, perché poi in campo non vanno i precedenti, no? Vanno i giocatori. Mi sembra molto bella questa storia di Di Matteo, che non solo raddrizza il Chelsea, ma rischia di ripercorrere le gesta, peraltro assai poco celebrate, no? Dalla stampa di quel Grant, che com'era la storia? Che nel 2007 lo cacciano, lo prendono al posto di Mourinho? No, lui era l'assistente di José Mourinho. Mourinho, dopo la partita contro il Rosenborg, pareggiata in casa, tra l'altro fu anche una mia telecronaca, ma a parte questo, un Chelsea molto deludente. A parte questo? No, questo è ovviamente un totale dettaglio, però me la ricordo bene questa storia. Praticamente poi lì non si è mai capito chi dei due è andato dall'altro, cioè se Abramovic è andato da Mourinho o Mourinho è andato da Abramovic. Comunque finisce il rapporto tra Mourinho e il Chelsea, e il Chelsea, che solitamente era abituato a comunque ingaggiare grandi star sia in campo che in panchina, decide di affidare a questo ombroso signore di origini israeliane la guida tecnica della squadra, e da lì cambia il film, perché il Chelsea, così come è accaduto, però non dimentichiamo che quella di Di Matteo è una storia molto recente, perché è accaduta poche settimane fa, mentre invece Grant ha presa in mano la squadra a ottobre, credo. E il Chelsea è cambiatissimo, perché evidentemente, così come i giocatori allora, molti dei quali sono peraltro gli stessi, forse non ne potevano nemmeno più di Mourinho, non lo so, certamente non ne potevano più di Villas-Boas adesso. Di Matteo ha fatto qualche correzione, è tornato a puntare su John Obi Mikel, è tornato a puntare su Kalou, si è abbastanza dimenticato Sturridge, spesso ha preferito Torres a Drogba, soprattutto ha accorciato le linee e non ha più tenuto la difesa così alta che tanti disastri aveva causato, e questo è stata una normalizzazione, cioè il Chelsea in questo momento gioca con una punta centrale che può essere Torres o può essere Drogba. Io onestamente giocherei sempre con Drogba, però effettivamente Torres, pur non segnando, sta comunque dando qualcosa in più del passato. Ormai temo dovremmo abituarci in questo periodo alla vita di Torres a non vederlo tanto sul tabellone dei marcatori. Per tutto il resto c'è stata una riesplosione di Frankie Lampard, si è affidato ai vecchi draghi che probabilmente volevano anche dimostrare che era tutta colpa di Villas-Boas, e non a caso 9 vittorie in 12 partite, Gigi, compresa una grande semifinale di FA Cup domenica contro il Tottenham. Certo, Grant fu quello che poi non fu quello, fu Terry, ma lui arrivò in finale e fu quella scivolata di Terry dal dischetto, no? Che gli costò. Guarda, loro avevano praticamente vinto la Champions League, finale di Mosca, grande pioggia, Manchester United Chelsea finisce 1-1. Vanno ai rigori, lì Cristiano Ronaldo tra l'altro sbaglia un calcio di rigore, lui che aveva segnato durante i tempi regolamentari, si va al rigore decisivo, John Terry va dagli 11 metri, se segna vincono, se sbaglia invece rimane ancora tutto in gioco, scivola sul dischetto e gli esce una padellata che rimette in gioco il Manchester United, e poi il Manchester United con la coppa l'alzata. Avi Grant da lì in poi però non ne ha più azzeccata una, non so se per sfortuna o quant'altro, perché poi comunque ha fatto male l'anno dopo, perché poi ha cambiato un paio di squadre ed è sempre stato esonerato. Poteva essere l'uomo qualunque al momento giusto, aveva vissuto l'attimo fuggente, saputo afferrare, ma non lui, Terry, ma i tacchetti della scarpa di Terry. Quella è sfortuna nera. Allo stato puro, il negozio ufficiale del Bayern vende magliette con la scritta La Bestia Nera in spagnolo. Negozio ufficiale del Bayern nel quale sono stato, tra l'altro, vicino a Marienplatz, molto molto fornito, molto molto bello, e di fronte adesso c'è lo store ufficiale del Monaco 1860, che è una squadra che ha molta meno tradizione, ma è la squadra che ha tolto sia i colori della città, che non sono bianco-rossi ma sono bianco-azzurri, sia soprattutto il nome, perché il Bayern porta in giro il nome della Baviera, e diciamo che è come la Lazio con la Roma, mentre il nome lo porta il Monaco 1860. Torniamo in collegamento con Fabio Tavelli, adesso un po' più a volo d'uccello. Dunque, testa a testa City United mi sembra abbastanza segnato, a vantaggio dei seconi, però c'è confronto diretto, ma soprattutto, ma questo Tevez che ha ricominciato a giocare e a segnare soprattutto. Sì, ma guarda, io credo che Tevez avrebbe potuto decidere il campionato italiano se fosse arrivato e se la trattativa Tevez-Pato fosse andata alla fine. Poi adesso è facile parlarne perché poi Pato si è infortunato, non ha giocato mai. Non dimentichiamoci che Tevez ha fatto vacanza per 5 mesi, quindi è in una forma strepitosa. Certo, fresco. È troppo facile. Oltretutto non è che è stato fuori per infortunio, è stato fuori perché aveva rotto quella società. E quindi Mancini in maniera molto pragmatica l'ha messo dentro e ha fatto bene, perché Mancini sta avendo Balotelli sempre squalificato, Dzeko fa molta fatica a trovare la porta, Tevez e Agüero sono due che non li prendi mai se hanno voglia di giocare palla a terra in velocità, e quindi il City, che sembrava davvero seppellito dopo la sconfitta all'Emirates con l'Arsenal, si è ripreso, ha dato tanti gol al Norwich, che è una squadra in ottima forma, in ottima salute, e quindi diciamo che il City minaccia di fare l'unplay per il finale di campionato, quindi dovrebbe vincere anche il derby in casa. C'è stato un momento prima della partita dello United che il City è salito a -2 ed erano -8, poi però lo United ha giocato, ha vinto la sua partita contro la Aston Villa e quindi è tornata +5. Diciamo che Ferguson è in controllo sì, di questo campionato, ci stupiremo tutti moltissimo dovesse perderlo. Esatto, un altro che è più che in controllo è il Borussia Dortmund, può addirittura, se ho letto bene, può addirittura diventare campione già sabato. Sì, perché ha 8 punti di vantaggio, tu pensa erano 5 martedì scorso quando ci siamo sentiti, poi c'è stata la vittoria nello scontro diretto con quegli errori pazzeschi di Robben, il Bayern di Monaco poi ha pareggiato in casa con il Mainz, che è l'ex squadra di Jürgen Klopp, l'allenatore del Borussia Dortmund. Il Borussia ha vinto un derby difficilissimo contro lo Schalke 04, è andato a +8, quindi le basterà un punto contro il Borussia Mönchengladbach per chiudere i conti. Meritatissimo, è una squadra che non perde da una vita, squadra molto giovane, molto bella, spumeggiante. Il Bayern si è un po' appesantito in campionato, il Borussia è andato via in agilità e con Blaszczykowski, con Lewandowski, con tanti altri giocatori veramente molto molto bravi. Direi che il titolo è meritatissimo. Ci facciamo una cura di calcio spagnolo da qui al prossimo mercoledì, mi pare, no? Perché insomma, stasera Real, domani Barça, sabato Real Barça, sabato. Anzi Barça Real al Camp Nou, esatto, e poi ricomincia il Barcellona martedì e mercoledì prossimo richiuderanno al Bernabeu. Quindi avremo tempo e occasioni. Carlo Ancelotti, non lui, insomma, anche lui, il suo Paris Saint-Germain, ha perso un'occasione enorme, mi pare, per il titolo. Sì, perché il Montpellier ha perso e il Paris Saint-Germain in questo momento è veramente in difficoltà, ed è in difficoltà nella misura in cui siamo di fronte a una squadra che sembrava avere già vinto con Boiré, che sembrava avere stravinto con Carlo Ancelotti, ed è una squadra che invece poi ha cominciato a far fatica e soprattutto non si è mai scrollata di dosso il Montpellier, che tutti dicevano prima o poi mollano, invece questi non solo non hanno mollato mai, ma sono anche andati avanti e adesso sono 2 punti di vantaggio. E la netta sensazione, a meno che non ci possa essere un contraccolpo negativo da un punto di vista psicologico per l'ultima sconfitta, è molto difficile che il Paris Saint-Germain gli salti avanti, perché comunque lo scontro diretto l'hanno già giocato, e sarebbe una grande delusione, credo, per Ancelotti in primis. E non a caso la stampa parigina ha cominciato anche a mettere in discussione la presenza di Leonardo nell'organigramma dell'anno prossimo, certo. Si dice che Leonardo potrebbe tornare in Italia. Sono cose che escono soltanto quando le cose vanno male, altrimenti non. Premesso che io non so se siano vere, attenzione. Sì, però già, solitamente la sordina viene messa più facilmente quando stai davanti. Hanno certamente un senso. Grazie Fabio. Grazie Gigi, ciao a tutti. Collegamento con Sky Sport 24 si chiude qua, 800 24 00 24 è il numero, come ben sapete, verde per i vostri interventi in diretta. Io adesso, a parte il fatto che mi segnala Franco Piantanide, il Montpellier sarebbe una new entry assoluta al vertice della classifica, cioè al vertice lo è già perché è in testa e non da poco, ma insomma sarebbe il primo titolo nella storia del calcio francese per questa città del sud-est e quindi in ogni caso farebbe storia. Vi dicevo dei vostri interventi da qui a poco, ma prima ascolterei due frammenti di queste due vigilie di Coppa Campioni, perché insomma con tutto il dispiacere che può aver causato l'eliminazione del Milan nell'ultimo turno e precedentemente di Inter e Napoli, non si può dire che sia arrivata con delle outsider, no? Questa fase finale di Coppa Campioni, questa doppia semifinale. Allora, Mourinho si è esibito sullo spunto che è un po' lo spunto di questi giorni, no? Di cui si parlava prima, e cioè il fatto che il Real sia abbastanza nettamente favorito per questo confronto, ma sia anche abbia un po' il complesso di inferiorità se si esaminano i precedenti, perché il Bayern l'ha buttato fuori assai spesso nella corsa alla Coppa. Allora Mourinho ovviamente ha un po' caricato le tinte su questo spunto. Gente top come Hoeneß, Beckenbauer, Rummenigge, Oliver Kahn, Hitzfeld, sono tutti della stessa opinione. Que el Real Madrid no es un gran equipo, que ellos son más fuertes y que ellos son favoritos y que nosotros tenemos algún tipo de complejo con la bestia negra y por lo tanto nosotros mañana seremos los que corren por fuera. Quindi praticamente siamo già fuori, dice Mourinho, perché da Hitzfeld in giù, avete sentito che ha citato un po' di personaggi del calcio tedesco, tutti sostengono che è il Bayern il favorito. È ovvio che probabilmente, insomma, che può andare ben diversamente, ma è anche vero che questa suggestione dei precedenti ha molto colpito i tedeschi. Vi si stanno aggrappando abbastanza seriamente e in ogni caso la rivalità tra i due club Real e Bayern è forte anche per certi episodi del passato, per certe anche violenze in campo che c'era stata negli anni 70, e poi comunque sono state sfide sempre un tantino avvelenate, tant'è vero che Beckenbauer, che insomma, in genere è è sempre abbastanza signore in queste vigilie, è stato stavolta abbastanza gelido e ha detto: il Real è una squadra normale, forte ma normale, non è mica il Barcellona, che è, come battuta detta ai madridisti, è poco meno di una coltellata. Dicevamo invece, per come anteprima della sfida di domani sera, dicevamo di Di Matteo e di come ha rigenerato il Chelsea, lo sentiamo in questa antivigilia. Per me è il gioco collettivo che ha questa squadra. Giocano in velocità, in profondità, segnano tanti gol, hanno giocatori individuali di altissimo livello mondiale, quindi è una combinazione di tutte queste cose. Però, ti ripeto, secondo me è il collettivo di questa squadra che poi la fa diventare una squadra così vincente. Ma io penso che prima di giocare credo sia 50-50, penso. Cioè, abbiamo tutte e due le stesse possibilità. Ottimista forse Di Matteo, perché è una questione di passo, mi pare, no? Il Chelsea è una squadra un po' pesantina, insomma, un po' non ha l'agilità, non dico del Barcellona, ma insomma non ha l'agilità del Napoli, e lo si è visto per esempio nel loro confronto diretto degli ottavi di finale. Però certamente è una squadra che soprattutto sul suo campo va presa con le molle, quindi domani sera non sarà una gita di piacere quella del Barcellona. Nel frattempo sta per arrivare a Livorno la salma di Pier Mario Borosini. Lo stadio, ripeto, si è riempito, i cancelli sono stati aperti sin da mezzogiorno, ci sono tifosi non soltanto del Livorno ma anche di molte altre squadre del circondario, compresi i pisani, che sono divisi da una rivalità acerrima, ma che per fortuna, almeno in questa occasione, hanno deposto, e questo vale per entrambe le tifoserie, hanno deposto, non dico le armi, ma che pure in passato ci sono state, ma almeno hanno deposto questa rivalità. Tra gli interventi di oggi ce n'è stato uno del presidente del CONI, Petrucci, stamane, che è stato molto significativo, perché che Petrucci da tempo abbia messo nel mirino la Lega Nazionale di Calcio, la Lega Professionisti, quella di Milano, non è più una novità. Che abbia avuto tutte le ragioni di farlo, non c'è nessun dubbio. Ma è stato particolarmente duro, perché il presidente del CONI invita al buon senso, leggo in un'agenzia, i club di Serie A: mi auguro che nella loro assemblea di venerdì un presidente si alzi subito in piedi e chieda di togliere dall'ordine del giorno il punto che riguarda la modifica della responsabilità oggettiva. Anche perché, ha spiegato Petrucci, non sarà rivista. E poi, in un successivo intervento più in dettaglio, ha spiegato che con la gravità della crisi che il calcio italiano sta attraversando dinanzi al fenomeno del calcio scommesse, abolire una norma o comunque ridimensionarla è esattamente il contrario di quello che può servire in un momento di questa gravità. Spazio a qualche vostro intervento adesso. Luigi da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Ascolti, io le volevo chiedere una cosa, una risposta da lei. Io l'altro giorno ho sentito il responsabile del doping della Federcalcio, il quale, commentando la morte di Morosini, diceva: si giocano troppe partite, ma soprattutto per giocarle poi tutte in forma, praticamente ai giocatori la faceva capire che non è che è tutto regolare, non è che è tutto normale. Detto da quello dell'antidoping, mi faceva un po' pensare. In più, se vogliamo, c'è anche quello che è un grande, che lei dice anche lei che è un grande, Zeman, che tutte le squadre di Zeman che soccorrono per viziato per tutta l'annata arrivano in primavera, c'erano. Sotto i nostri occhi ci sono squadre che corrono per tutto il campionato e non c'erano mai. E allora quello che mi viene da dire a me è che forse tutto quello che diceva il signore, che il dirigente della Federcalcio, forse è vero, e che dovremmo tutelare in questo senso i nostri ragazzi che giocano al pallone. Ma senta Luigi, io non ho ascoltato questo intervento di questo dirigente della Federcalcio, non ho idea di chi si tratti. Se fa il dirigente della Federcalcio si occupa di antidoping, mi sembra un po' strano che in una circostanza del genere si sia lasciato andare a una dichiarazione di quello stampo, insomma, di quel tenore, che abbia insinuato un sospetto così grave in un momento, nel momento meno indicato, anche perché non sarebbe stato difficile fare, sarebbe stato inevitabile fare un 2 più 2, quindi io non voglio dire che lei abbia sentito male, ma temo proprio di doverlo sospettare, ecco, e quindi questo poi mi porta a far cadere un tantino tutto il resto che ne potrebbe derivare e su cui lei ha fatto delle valutazioni. Agim, leggo bene, Agim da Milano. Sì. Buongiorno. Mi seguo sempre. Ascolta, io seguo il Real da più di 30 anni, allora per quanto riguarda i precedenti volevo fare solo due precisazioni. In fase di eliminazione diretta sono in parità 4-4, solo che due qualificazioni del Real sono avvenute nei quarti e poi un'altra in Coppa UEFA, vecchia Coppa UEFA. Poi la differenza la fanno solo due vittorie del Bayern nel girone del 2000. Poi il secondo argomento, si vede che a Monaco non sono scaramantici, perché nel 2000 lasciavano, cioè, banconote facsimile, bancarotta Real Madrid, se soliti, eccetera. E poi in finale ci andò il Real, grazie. grazie a lei. Evidentemente il Real ha dei tifosi di lunga memoria, no? anche dalle nostre parti. Accennavo ieri, qualche ascoltatore me la sta sollecitando via mail, quella strana squalifica di Pelissier dopo Chievo-Milan. Allora sono andato a ripescare la motivazione ufficiale, che è la seguente: squalifica Pelissier Sergio, Chievo-Verona, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, sanzione aggravata perché è capitano e va bene, e per avere al termine della gara negli spogliatoi proferito espressioni blasfeme, infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale. Allora mi domanda Luca Zambotto, che è un tifoso del Chievo, scrive da Verona, dice: ma questa regola riguarda tutte le squadre di Serie A oppure è soltanto il Chievo a essere sottoposto ai severi controlli del cardinale Bagnasco? E in effetti mi sembra più che legittima la domanda, perché ripeto, lo accennavo ieri di sfuggita, questa norma è sempre stata abbastanza comica, ma più comica ancora sono le modalità di impiego, nel senso che se sono dei giocatori, quelli che oggi chiamano, i top players, se sono top players, no? Che bestemmiano in favore di telecamere in primissimo piano, non succede assolutamente niente, perché sennò scoppia la rivoluzione, e il cardinale Bagnasco in quelle dolorose circostanze deve farsene, come dire, una ragione o chiudere un occhio. Se ne scappa una a Pelissier in spogliatoio e quindi non passibile di cattivo esempio, di chissà che cosa, di tutte queste considerazioni, allora Pelissier viene regolarmente squalificato. Questa è l'applicazione delle leggi calcistiche nell'anno di grazia 2012. Corrado da Parma, buongiorno. Buongiorno Garanzini, grazie dell'opportunità concessa. Sono uno sportivo juventino, tifoso no, in quanto secondo me il tifoso tende a non essere mai obiettivo. Io volevo sostenere la sua tesi su Calciopoli, era sicurarla che come me tanti sportivi juventini su questo argomento la pensano come lei. La domanda che volevo farle era questa: il grande Torino dei 5 scudetti, con le dovute cautele, considerazioni, considerato che in quegli anni l'informazione, la tecnologia, magari anche le partite internazionali erano quelle che erano, è paragonabile al Barcellona degli ultimi 5 anni? L'ascolto sempre come un'ammirazione per Radio. La ringrazio molto di questo, Corrado, però devo deluderla, nel senso che non sono in grado di risponderle, anche perché... per fortuna, diciamo, che non l'ho visto giocare, nel senso che ho già abbastanza anni e mi ci mancava solo aver visto anche il grande Torino per averne ancora di più. No, avrei dato chissà cosa per vederlo giocare, e ho cercato, ma come me un'infinità di appassionati, anche di storici, ho cercato di trovare immagini, filmati di una certa continuità che potessero dare l'idea di come giocava questa squadra. Non c'è nulla, nel senso, sì, c'è qualcosa, ci sono dei brevi frammenti, ma sono frammenti davvero davvero minimi, spesso ripetuti, non c'è filmati che si sganciano, non c'è niente di veramente attendibile, quindi bisogna affidarsi alla tradizione orale. La tradizione orale, tra l'altro, bisogna fidarsi di persone che in linea di massima non ci sono più, perché se hanno visto giocare il Grande Torino, l'hanno visto giocare da 45 a 49. E, bene, molti di questi osservatori di un tempo sostenevano e hanno continuato a sostenere che il calcio del Grande Torino in Italia era un calcio rivoluzionario, diverso, che era un modulo e una formula innovativa che questo tecnico di origine ungherese aveva portato nuove concezioni, che al di là di questo, che era dal presidente Ferruccio Nova era stato assemblato uno squadrone in cui c'erano eccellenze assolute in ogni reparto, quindi in difesa, quindi a metà campo, quindi davanti, più un fuoriclasse assoluto che era Valentino Mazzola, il papà di Sandro Mazzola, mezzala a tutto campo, che anticipò di non molti anni, ma di qualche anno, anticipò Alfredo Di Stefano. E non è che dici anticipò Alfredo Di Stefano, non è che dici anticipò Balotelli, no? Cioè, anticipò un fenomeno, Balotelli ci arriviamo, anticipò un fenomeno riconosciuto, uno dei due, tre più grandi calciatori di tutti i tempi. Ecco, perché Mazzola, si diceva allora, scrivevano, si legge sulle cronache di allora, raccontavano i testimoni oculari che Mazzola salvava un pallone sulla linea di porta e nell'azione susseguente andava anche a fare gol, e non è successo una volta sola. Quindi è ragionevole pensare che questi fossero i fenomeni. Tutti i loro avversari del tempo, a cominciare da un grande rivale come Giampiero Boniperti, che riuscì a farsi largo nella Juventus proprio a metà più o meno del ciclo del Torino, sosteneva e ha sempre sostenuto che quella era una squadra non imbattibile, ma quasi, insomma. E quindi dobbiamo fidarci di questo. Da lì a un parallelo col Barcellona di oggi il salto veramente è troppo grande, anche perché non esistono, ripeto, parametri di paragoni possibili. Ascoltiamo, c'è ancora un ascoltatore collegato, poi magari dopo torniamo ad ascoltare qualche frammento, qualche testimonianza. Roberto dalla provincia di Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, chiamo solo per confermare ciò che ha detto l'ascoltatore di Bergamo riguardo le dichiarazioni del direttore antidoping. Ma chi è questo direttore antidoping? Ha detto precisamente. Sì, ma come si chiama? Chi è? No, non mi ricordo il nome. Ciao. Ha detto, le dico cosa ha detto. Assumono sostanze che non sono doping, però ha detto che assumono sostanze. Questo ha precisato questo responsabile. Assumono sostanze, vitamine, vino, che cos'è? Cioè mangiano cereali? Sostanze, ha detto sostanze. Sostanze, non ha che non sono doping, però ha aggiunto. Che non sono doping, ha detto. Non lo so, però, io credo. Però, cioè, però. Io dubito, posso dubitare. No, ma non so. L'ascoltatore lì dubita anche lui, siamo già in due. Poi ce ne saranno altri. La ringrazio. Ma grazie a lei, ma dubitare è assolutamente lecito. A me capita anche ogni tanto di dubitare che qualcuno non senta bene quello che si dice, ma interpreti correttamente quello che viene detto. Ripeto, se in una circostanza come quella un che però non mi sapete nemmeno dire come accidenti si chiama e che ruolo ha e che mestiere fa, se ha fatto l'affermazione che voi gli attribuite, si è assunto una responsabilità molto grave. Per questo io faccio un po' fatica a crederlo, tutto qua. Il 17 aprile, nella libera interpretazione di Nicola Filippone. Sembra ieri. 17 aprile 1990. Finisce a reti inviolate la semifinale di ritorno di Coppa UEFA tra la Fiorentina e il Werder Brema, un risultato che, in virtù dell'1-1 dell'andata, apre a Baggio e compagni le porte della finale, dove incontreranno la Juventus. Ma la sfida col Werder a Firenze sarà ricordata anche per un gesto tecnico audace, che manda in visibilio il pubblico e sbalordisce molti dei protagonisti in campo. Il numero 7 viola, il 23enne Marco Nappi, si esibisce infatti nella foca, portandosi il pallone attaccato alla testa per circa 40 metri, una performance a cui Nappi, nel prosieguo della sua lunga carriera, sarà sempre indelebilmente associato. Ma come fa a farsi venire in mente queste robe, Nicolino, anzi Nicolone, Filippone? Questo è un mistero. Certo che ascoltandola rivedo Nappi che percorre questi, lui dice 40 metri, non lo so se erano 35 o 43, ma insomma che continua a tenere su in piena corsa, ma poi in corsa, non corsetta di esibizione, in piena corsa a tenere sta palla su con la testa, abbastanza incredibile, è vero. Balotelli pare che abbia espresso in un'intervista l'intenzione di mettere la capoccia a posto. Non ci può ovviamente credere nessuno, io nel mio piccolo me ne guardo bene, ma tanto vale ascoltarlo come documentazione. Io penso di aver capito, e anzi sono sicuro di aver capito, che un'espulsione danneggia la squadra, quindi per la squadra di sicuro, o anche agli europei, che una munizione è molto più pesante che nel campionato. Di ammunizioni o espulsioni stupide non avrei mai, perché danneggerei la squadra. Ho chiesto scusa a Mancini perché ha puntato tanto su di me. Io non penso di averlo deluso, però penso che con l'Arsenal non dovevo essere espulso. Io sto bene con il mister sta bene con me, i litigi ci sono come ci sono con gli altri giocatori, è normale, succede che ti riprende in campo, cose del genere. Solo che poi quando riguarda Mario Balotelli diventa un casino totale. Sì, sono solo 4 anni che è professionista Balotelli, no? Ed è ormai sono 7-8 che gioca a calcio, quindi qualche scoperta è pur sempre interessante. Non è finita qui, perché poi ha parlato anche di nazionale e di futuro, e tanto vale ascoltare anche quest'altra parte. Ah, ho detto che la nazionale è la cosa più importante, è la squadra più importante, e non c'è nessuna squadra di club che posso desiderare di più che la mia nazionale, e farei di tutto per la nazionale. Io penso che rimango, però adesso non ci sto pensando, penso a vincere questo campionato, poi ci penserò, però non penso di andare via. Per avere me, Inter Milan, non so perché si parla di Inter Milan, non c'entra niente di Inter Milan. Ha chiamato Luca da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini, a tutti i radioascoltatori. Volevo fare una segnalazione un po' fuori dalle righe degli argomenti di questi giorni. Mi premeva, insomma, sottolineare da napoletano, tifoso del Napoli, la bravura e ormai la consolidata abilità del presidente del Chievo Verona di riuscire a rimanere in Serie A con buoni risultati da 5, 6, 7 anni. Da 10. Anzi, da 11 con una retrocessione in mezzo. Addirittura, con un bacino d'utenza vicino allo zero rispetto agli altri e con una disponibilità finanziaria estremamente esigua, quindi con dei risultati frutto veramente di competenza, abnegazione e soprattutto signorilità, perché è una squadra molto martoriata dalle sviste arbitrali, sicuramente in buona fede, ma molto martoriata. Quindi volevo in questo momento particolare per il calcio, che è l'unica isola felice in termini finanziari nel mondo, che si rivolgesse un plauso a questa società, perché, e volevo che questa cosa partisse da Napoli e che fosse praticamente famosa a tutti gli radioascoltatori della sua trasmissione, che anche nel Napoli si può apprezzare il comportamento della società veronese. Carina questa, la ringrazio anche a nome dei Clivensi, così si chiamano gli abitanti e tifosi della zona della diga, perché poi è vicina a questa diga a Verona, e stiamo parlando di un quartiere di 3-4 mila anime, che ogni tanto è bene, ha fatto benissimo lei, ogni tanto è bene ripassare che questo è il vero bacino d'utenza del Chievo. È un quartiere, ma non un quartiere di Milano, un piccolo quartiere di Verona, di poche, ma veramente poche migliaia di abitanti. C'era un ascoltatore già collegato, ma Enzo da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Ho seguito il suo consiglio, nel senso che cerco di vedere quanto meno possibile le trasmissioni sportive, perché mi accontento di vedere i gol, le azioni, il gesto tecnico e così via, perché poi il resto non si può guardare. Però sono rimasto po' confermato in merito in seguito alla morte di Morosini, di vedere le trasmissioni fatte appositamente per riempire spazi, cioè da Reale o Mediaset o quelli che sono. Non si sono accontentati di presentarsi e dire signore scusateci, non c'è stato calcio, è morto Morosini, trasmissione rinviata, amen. Hanno fatto delle trasmissioni di pipponi, di interviste a medici, massaggiatori, ma ci dovrebbe essere un po' di morale, e un po' di, non lo so, di decenza, di amore proprio. Solo questo, eh. Dice lei. Dice lei, e Vespa, no, ma si, c'è ancora? È ancora collegato? Sì. Vespa, dato che io non frequento, ma dico Vespa per dire quel genere di programmi, si sono già esibiti o no? C'era il plastico del campo di Pescara? Io non lo so, mi è bastato vedere l'inizio di Studio Sport con Variale, perché cambiavo canale, ho detto, ma Variale. Quando è ora si fa la TV del dolore, no? Le ripeto, grazie che non ci sia stato il plastico, forse questa volta ce l'hanno risparmiato, non lo so, non sono certamente documentato in materia per poter dire se è stato fatto o non è stato fatto, qualcuno non ci ha pensato, magari qualcuno si starà mordendo le mani. Io so di sicuro che questo è un paese dove il guardonismo da dolore è diventato un fenomeno abietto, ma è proprio perché è instillato, inoculato da programmi che io personalmente ritengo ignobili, che invece saranno, per carità, programmi nobilissimi e doverosi. Certo che se poi scatta sulla base di questi programmi, no? sui veleni che questi programmi instillano, poi scatta il turismo del dolore a Cogne o ad Avetrano o a Garlasco o all'Aquila, beh, non ci possiamo stupire di nulla, possiamo soltanto ringraziare questi guru, no? della informazione ad ogni costo e soprattutto in ogni circostanza. Sento una musichetta sullo sfondo, meglio così. Nicolò Rinaldi in regia, Franco Biantanide in redazione. Appuntamento come sempre a domani.